Ed ora il dialogo. È meglio controllare se c'è tutto. Check if everything is there. Oh, yes. Le carte di credito ci sono? Credit cards. Yes, ci sono. And the money's also here. Ah, ci sono anche i soldi. Bene. Sì, sì, bene, ma il passaporto c'è? The passport. Yes, c'è. Oh, wait a minute. This isn't mine. Non è il suo passaporto? E di chi è? Whose passport is it? It says George Wickham. George Wickham. E chi è George Wickham? I don't know. There must have been a mistake in reception. Sì, è possibile. Il suo passaporto è sicuramente alla reception. Sarah has another problem now. The passport is not hers. It belongs to George Wickham, whoever he is. Maybe the receptionist at the Hotel Berchielli made a mistake and mixed up. I passaporti. The passports. By the way, did you notice that money is plural in Italian? I soldi. The money is here. I soldi ci sono.